le 13 in punto. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. La fiducia sulla finanziaria sarebbe deprecabile, dice il presidente della Camera Fini. La manovra arriva in aula senza l'esame degli emendamenti in commissione. La mossa di Francoforte, atteso fra tre quarti d'ora il taglio dei tassi da parte della BCE, le borse sono in calo. Obama affronta la crisi, andrà al G20 con Bush e nel frattempo sceglie la squadra per la transizione. Storia di un presidente, il lavoro di Barack con gli emarginati nel racconto di un reverendo di Chicago, fra poco l'intervista. Marcia indietro, nessuna chiusura delle piccole scuole, almeno fino al 2010, oggi all'esame del governo il decreto sull'università. In coma, 27 anni per uno scippo a Napoli, arrestati due ragazzini. Testamento biologico di fatto, un uomo di Modena affida alla moglie la scelta, nel caso colpito da malattia gli sia impossibile. Fondi per la sanità privata convenzionata finiti in molte regioni, oggi parliamo del caso Umbria. Una buona giornata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco. In primo piano dunque oggi in questa edizione del GR Extra Large la politica, perché il presidente della Camera Gianfranco Fini ha preso una posizione durissima nei confronti del governo. Ci aggiorna sulla situazione da Roma Elisabetta Fiorito. Proteste per il ricorso al voto di fiducia sulla finanziaria qui alla Camera. A contestare non è solo l'opposizione, ma il richiamo viene dal presidente della Camera Gianfranco Fini, che così interviene questa mattina in aula a Montecitorio. Sentiamo. Qualora su quel testo il governo addivenisse alla decisione di porre la questione di fiducia, ovviamente decisione del tutto legittima, ci troveremmo tuttavia in presenza di una situazione che non soltanto sarebbe anomala, ma che a mio modo di vedere sarebbe politicamente deprecabile. Tutto è iniziato questa notte in Commissione Bilancio, dove i lavori sulla finanziaria sono stati bloccati. Il governo ha blindato il testo dopo le proteste dell'opposizione, che chiedeva insieme alla Lega di non porre la fiducia. La finanziaria arriverà direttamente in aula con il mandato al relatore. Anche il ministro dei rapporti con il Parlamento, Aglio Vito, auspica che non si ricorra alla fiducia, ma chiede però un'approvazione rapida. E sul ricorso alla fiducia si è espresso anche il Partito Democratico. Sentiamo Gianni Letta. La manovra finanziaria del governo presentata prima dell'estate non teneva conto ovviamente di quello che è successo dopo, la crisi che colpisce le famiglie e le imprese. C'è bisogno di cambiare la finanziaria, la manovra, per far sì che gli interventi a sostegno delle famiglie e a sostegno delle piccole e medie imprese entrino dentro. In questo senso il richiamo di Fini è fondamentale, perché è un modo per evitare che le finanziarie fatte di corsa finiscano per essere un danno per il Paese. Grazie dunque Elisabetta Fiorito. Nel frattempo, Alessandra, sono arrivati importanti aggiornamenti sul fronte finanziario. Sì, perché la Banca d'Inghilterra ha tagliato il tasso di riferimento di 1,5%. Ricordiamo fra l'altro che oggi la BCE alle 13.45 prenderà una sua decisione in merito al taglio dei tassi. Deborah Rosciani, allora. Sì, allora la situazione in borsa questa mattina era piuttosto difficile dopo i cali di nuovo piuttosto marcati registrati ieri a Wall Street e questa mattina sui mercati asiatici. C'è adesso invece un miglioramento, ci sono ancora dei segni meno, ma il calo dopo i 4 punti e mezzo che le borse un'ora fa perdevano, adesso i cali sono attestati a circa 2 punti e mezzo. Londra -3,93 è ancora la più pesante, la migliore Piazza Affari perde l'1,50%. Ho la sensazione che questo taglio sia molto più forte di quello che il mercato immaginasse per quello che riguarda la Banca d'Inghilterra, per cui chissà che non arrivi anche una sorpresa fra mezz'ora da parte della Banca Centrale Europea, i cui tassi sono adesso al 3,75%. Il mercato si attende un taglio di mezzo punto, chissà che non ci sia anche la tentazione di fare un taglio un po' più coraggioso. Grazie Deborah. Naturalmente vi aggiorneremo, perché nel corso di questa edizione del GR Extra Large arriverà appunto la decisione della Banca Centrale Europea e ci collegheremo anche con Francoforte per sentire delle impressioni a caldo dal corrispondente del Sole 24 Ore. E adesso una rettifica a quanto detto nel collegamento con la nostra corrispondente da Roma, Elisabetta Fiorito. La voce che avete sentito, quella dell'opposizione, è naturalmente quella di Enrico Letta e non di Gianni Letta, come detto erroneamente. Sì, che in realtà appunto è sottosegretario della Presidenza del Consiglio, quindi da tutt'altra parte, anche se sono parenti. Parlavamo delle borse. Le borse non hanno reagito con particolare energia, in realtà, come sentivamo all'esito delle elezioni americane. Vista la difficile crisi finanziaria, è quasi certo Alessandra, e Barack Obama parteciperà al G20. Sì, al G20 che si terrà il 15 novembre a Washington, quel G20 che era stato voluto fortemente dal presidente francese Sarkozy, poi Bush gli ha detto sì, va bene, lo faremo, quindi si parlerà inevitabilmente di crisi finanziaria. Ma il mondo sta con gli occhi attenti a Washington anche naturalmente per vedere che cosa adesso farà Barack Obama. Sì, iniziano a circolare i nomi dei possibili segretari al tesoro, sono un ruolo chiave in questa fase, e tra i nomi c'è quello dell'ex presidente della Fed Paul Volcker, mentre Obama ha già approntato la transizione. Sentiamo in che modo. Sarà il deputato dell'Illinois Rahm Emanuel, amico storico di Obama, capo del gabinetto e più stretto collaboratore del nuovo presidente. Emanuel, già conosciuto per essere stato nello staff di Clinton, prende il posto di Bolton ed ha un ruolo di estrema importanza per la Casa Bianca. È infatti una delle figure più influenti dopo il presidente e ne cura l'agenda quotidiana. Oltre a questo, ha il compito di fare da supervisore alle attività dello staff della Casa Bianca. Emanuel, percepito da molti come cinico, ha 49 anni, è figlio di israeliani, membri del gruppo sionista Irgun ed è uno stratega di larghe vedute. Il team che aiuterà Obama nella transizione sarà guidato da John Podesta, capo di gabinetto durante la presidenza Clinton. Ne faranno parte anche la governatrice dell'Arizona Janet Napolitano, che potrebbe avere un incarico anche nell'amministrazione Obama, e Valerie Jarrett, amica del nuovo presidente e consulente della sua campagna elettorale. La squadra di consulenti comprende anche Federico Pena, ex segretario all'energia e ai trasporti sotto Clinton. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 ore. I suoni che state sentendo arrivano dal Kenya, terra dalla quale era originario il padre di Barack Obama, dunque si festeggia in Kenya. Mentre in un'altra e non lontana zona dell'Africa, il Congo, si combatte. Il mandato delle truppe delle Nazioni Unite, la forza di interposizione MONUC, è molto limitato e solo nelle ultime ore i caschi blu, a fronte dei nuovi scontri, hanno avuto il via libera ad aprire il fuoco sui ribelli guidati da Laurent Nkunda, che assediano la città di Goma. Rafforzare quel contingente o mandarne altri non avrebbe molto senso, dice il sottosegretario agli esteri Alfredo Mantica, con delega per l'Africa. Il punto è cambiare l'approccio all'Africa, ha detto intervenendo questa mattina a viva voce al microfono di Laura Bettini. In Africa o nelle Afriche, anch'io condivido questa definizione, i paesi occidentali, ma soprattutto gli Stati Uniti, hanno sempre avuto un approccio bilaterale, cioè si sono scelti sempre gli amici o i paesi che per motivi geopolitici, interessi economici, erano più vicini agli interessi, oggi lo stanno facendo i cinesi, e non hanno mai considerato quello che invece l'Italia ha sempre fatto e l'Europa più di ogni altro, che i problemi africani devono incominciare a risolvere gli africani. Noi possiamo aiutare quelle strutture che esistono in Africa di carattere politico e istituzionale, che sono molto deboli ma che hanno una loro forza. L'Unione Africana, che raccoglie i 52 paesi africani tutti insieme, dal mondo arabo fino al Sudafrica, e le organizzazioni regionali che esistono sempre di carattere politico, che raggruppano stati più o meno legati da una storia, l'Africa occidentale piuttosto che l'Africa orientale, piuttosto che il Centro Africa. Se continuiamo a pensare di fare delle scelte sul terreno di un paese piuttosto che di un altro, noi contribuiremo come comunità internazionale ad aumentare le difficoltà nelle quali oggi l'Africa si muove. Pensare di risolvere i problemi del Congo, voglio dire appoggiando il ribelle Kunda piuttosto che l'Uganda, che ha interessi nella regione dell'Ituri dove ci sono miniere d'oro a cielo aperto, non ci porta a nulla. No, non si va a casa. Ed è in questo scenario, uno scenario di guerra civile che ha ambientato uno dei romanzi più noti di Michael Crichton, Congo, appunto. In sottofondo state sentendo il trailer del film tratto da questo romanzo. Lo scrittore, regista e produttore americano è scomparso ieri a 66 anni. Il ricordo nelle parole di Oliviero Ponte di Pino, direttore editoriale della Garzanti, che l'ha conosciuto bene. Prima di tutto era altissimo, era 2,4 metri, 2,8 metri, già questo mi colpiva molto, ahimè non sono molto alto. L'altra cosa che colpiva in uno scrittore americano e in un autore di grandissimi bestseller di successo mondiale, conosciuto in tutti gli angoli del mondo, era la timidezza e la discrezione. Sembrava molto più nel comportamento un gentleman inglese che il tipico americano. Garzanti pubblica in Italia i romanzi di Crichton. Che cosa, secondo lei, piace così tanto dei romanzi di questo scrittore? Sì, Frattanti pubblica i libri di Crichton prima ancora che diventasse Crichton, perché lui studiava, era ragazzo, studiava medicina e per pagarsi gli studi scriveva dei romanzi sotto pseudonimo, e Garzanti aveva iniziato a pubblicare questi libri qui prima ancora che lui diventasse davvero Michael Crichton. La cosa che piaceva dei suoi romanzi, credo che lui fosse in qualche modo la reincarnazione moderna di Jules Verne. Jules Verne era in grado di raccontare le novità della scienza, della tecnologia in trame avvincenti e diffondendo a un pubblico più ampio quello che stava succedendo, quello che sarebbe successo nel mondo. Michael Crichton ha fatto in questi anni anche e soprattutto questo, gli studi sul comportamento degli animali, sul linguaggio delle scimmie, e viene fuori Congo, le nanotecnologie, e viene fuori Preda. Tra l'altro, quando è uscito Preda, tutti quanti c'erano un libro di fantascienza. Sei mesi dopo l'uscita del libro hanno cominciato a uscire sulle riviste scientifiche degli studi che spiegavano tecnologie di cui lui aveva in qualche modo già parlato. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. La Banca Centrale d'Inghilterra taglia i tassi di interesse dell'1,5%, l'intervento più forte da 27 anni a questa parte, ed è attesa fra mezz'ora la decisione della Banca Centrale Europea. Ci si aspetta un taglio di 50 punti base. Le borse europee ancora in ribasso, ma migliorano. La finanziaria proda in aula alla Camera, ma ci sono le critiche del presidente di Montecitorio. Gianfranco Fini contesta che non vi sia stato l'esame degli emendamenti in commissione e dice il ricorso alla fiducia sarebbe anomalo e deprecabile. Barack Obama, pur non essendo in carica, parteciperà al G20 che si svolgerà tra 10 giorni sulla crisi finanziaria. Il neopresidente sta intanto definendo lo staff che lo accompagnerà nel periodo di transizione. Tra poco l'intervista ad un reverendo che ha lavorato con lui in gioventù. In coma dopo uno scippo, il fatto è avvenuto a Napoli. Sono stati arrestati due ragazzini di 15 e 17 anni. La vittima è una donna di 27 anni. All'esame del Consiglio dei Ministri il decreto sull'università. Intanto il governo rinvia la chiusura delle scuole sotto i 50 alunni. Avverrà tra il 2010 e il 2011. Il gigolo e l'ereditiera, 7 milioni sottratti ad una delle principali azioniste della BMW e soldi nascosti in una tenuta nel Pescarese. Polizia italiana e tedesca impegnate nella caccia al tesoro. Tra i tanti che martedì notte hanno festeggiato Barack Obama a Chicago c'era anche il reverendo Alvin Love, pastore della Lilydale First Baptist Church di Chicago, appunto. Alvin Love conosce Barack Obama molto bene, da oltre 20 anni, da quando, cioè, il neopresidente, fresco di laurea in scienze politiche, accettò un lavoro da community organizer a Chicago. Negli anni successivi Obama si sarebbe attivamente impegnato in favore della comunità afroamericana del sud della città, riscrivendo tutti i metodi di lobby e pressione sulla politica locale. Obama, per esempio, impose con un network sociale che fa perno sulle chiese locali un'agenda di lavoro concreta a politici basata sui problemi reali dei cittadini. L'intervista al reverendo Alvin Love è del nostro inviato a Chicago, Sergio Nava. Ho incontrato Barack Obama nella primavera del 1985, quando venne nella mia chiesa. Cercava parrocchie che si unissero al suo tentativo di organizzare la comunità. Reverendo Love, chi era Barack Obama all'epoca in cui l'ha conosciuto? Era un giovane promettente. No, non lo era. Era appena arrivato in città e cercava di mobilizzare la gente dei quartieri. Nessuno lo conosceva. E a Chicago, se non conosci nessuno, è difficile ottenere appoggi. Fu per questo che gli costò parecchio tempo avviare la propria attività di community organizer. E come ce la fece? Penso che in parte fu proprio l'essere nuovo in questa città, paradossalmente, il suo punto di forza, ma lo aiutò anche il fatto che c'era in quel periodo un'intera generazione di giovani pastori, come me, in arrivo proprio qui a Chicago. Eravamo 5 o 6 in tutto, appena sbarcati con lui, tutti sulla trentina. Trovò quindi del sangue giovane con cui lavorare. Quali sono i principali risultati del lavoro di Barack Obama come community organizer che le vengono alla mente? Tre in particolare. Il primo è lo spazio di formazione per i disoccupati che siamo riusciti ad aprire con lui. Fornivamo lavoro e formazione a chi aveva perso tutto. Il secondo fu l'iniziativa di ripulire alcuni edifici dall'amianto. Queste erano cose concrete che lui ha fatto in quegli anni. Ma io penso che la cosa migliore che ci ha insegnato è stata quella di imparare a organizzarci intorno a tematiche e problemi comuni per fare pressione sui politici locali. Questa è la sua migliore eredità che sopravvive tutt'oggi. Reverendo, chi è Barack Obama? Well, he is an extremely intelligent. È un uomo molto intelligente, molto impegnato, ma è anche un uomo molto compassionevole. Una delle sue migliori qualità è l'abilità di saper ascoltare gli altri punti di vista, di interiorizzarli, di capirli, di trovare poi del terreno comune per comunicare meglio coi propri interlocutori. Barack Obama lasciò a un certo punto il suo lavoro di community organizer per andare a studiare legge ad Harvard. Poi tornò a Chicago per lavorare come avvocato nel settore dei diritti civili. Al suo ritorno riprese la sua collaborazione con voi? Sì, anche se non faceva più parte della nostra organizzazione. Continuò tuttavia a collaborare con noi anche mentre si trovava ad Harvard. Tornava e lavorava con noi su certi progetti specifici. Poi, rientrato a Chicago, fece anche il ritorno alla nostra organizzazione e ci chiese di poter dare una mano. Così tornammo a lavorare insieme. Barack Obama appare come un uomo che presta grande attenzione agli emarginati, a chi viene dimenticato da questa società. Può questa sua qualità davvero unica rappresentare un punto di svolta nella politica americana? Ciò che Barack ha fatto è stato cambiare il modo in cui facciamo politica in America. Io penso che lui abbia portato un nuovo spirito nella politica americana. Ci ha ricordato che dobbiamo prenderci cura degli emarginati, che ci dobbiamo concentrare sui meno fortunati e su chi è stato lasciato indietro. Reverendo, come si immagina Barack Obama presidente? Come potrà, soprattutto, cambiare gli Stati Uniti e il mondo? Penso che lui cambierà le cose perché produrrà risultati. Lui è incredibilmente capace di comunicare con chi ha idee completamente diverse rispetto alle sue. Lui sa trovare terreno comune anche con i suoi avversari e questo alleggerirà molto la tensione presente nelle relazioni diplomatiche tra gli Stati Uniti e gli altri paesi. Eliminata questa tensione, penso che potremo trovare aree d'intesa, il che renderà il nostro mondo un posto più sicuro. Washington, il mondo anche corrotto della capitale federale, potrà cambiare, secondo lei, Barack Obama? Io non penso che lo cambierà. Lo conosco da 23 anni ed è sempre rimasto lo stesso. È un uomo aperto agli altri, sa dove è diretto. Non penso che la politica di Washington lo cambierà. Se non è cambiato in questi 23 anni per arrivare all'obiettivo, non penso che cambierà proprio ora che ci è arrivato. I repubblicani hanno cercato di rappresentarlo come un uomo tutta immagini e niente sostanza, come un freddo calcolatore elettorale. Io dico che questo è completamente falso. Io l'ho conosciuto fin dall'inizio. Lui non calcola. Analizza attentamente la situazione, poi prende le decisioni migliori per tutte le parti coinvolte per arrivare al successo. Non penso che questo atteggiamento sia riducibile a un freddo calcolo. Penso invece che Barack Obama avrà a cuore i bisogni di questo paese e metterà assieme le persone giuste per soddisfare questi bisogni. Come ha accolto la notizia dell'elezione la comunità afroamericana del South Side di Chicago? Penso che ci sia stato un senso di gioia travolgente nella comunità afroamericana. C'è stato anche un gran senso di sollievo nel vedere che alla fine è potuto accadere. Un afroamericano è potuto diventare presidente. Hillary Clinton chiedeva voti per rompere quel tetto di vetro che impedisce alle donne americane di arrivare alla presidenza. Beh, alla fine anche noi afroamericani avevamo un tetto di vetro, nonostante non lo volessimo ammettere. Ieri sera lo abbiamo spezzato. Reverendo, ha potuto incontrare Obama negli ultimi mesi, soprattutto nelle fasi finali della campagna elettorale? Non parlo personalmente con Barack Obama da circa un mese. Con lui ho scambiato nelle ultime settimane solo SMS e delle email. Per me è stato sufficiente vederlo ieri notte da sotto il palco e condividere con lui questa vittoria. Quale sarà la prima cosa che gli dirà quando riuscirà a parlarci? Cosa gli dirà da amico? L'ho già chiamato al cellulare, lasciandogli un messaggio in segreteria per dirgli quanto io sia orgoglioso di lui. È stato un lungo viaggio, ce l'abbiamo fatta assieme. L'ho anche rassicurato sul fatto che ha sempre degli amici qui nel vicinato, pronti ad aiutarlo. Lo inviterà a tornare a fare visita alla vostra chiesa? He's always welcome. Ed era l'intervista realizzata dal nostro inviato a Chicago, Sergio Nava, al reverendo Alvin Love, pastore della Lilydale First Baptist Church di Chicago, appunto, che conosce bene Barack Obama e ha lavorato con lui. Ora ci colleghiamo con Napoli per una brutta notizia di cronaca. Una donna è entrata in coma dopo aver subito uno scippo. Enzo Danna, cos'è successo? Sì, buongiorno, è in coma all'ospedale Loreto Mare la studentessa salernitana 27enne rimasta vittima di uno scippo nella centralissima piazza Dante. La ragazza è stata trascinata per terra per alcuni metri riportando gravissime lesioni. I due scippatori, entrambi minorenni, sono stati fermati questa mattina dai carabinieri con l'accusa di tentata rapina aggravata. Si tratta di un 17enne e di un 15enne dei quartieri spagnoli, quest'ultimo tra l'altro con precedenti specifici. Nella tarda serata di ieri i due a bordo di un ciclomotore hanno visto la ragazza e hanno cercato di strapparle la borsa. Durante l'aggressione la studentessa è caduta battendo violentemente la testa. I minori sono stati riconosciuti dalla sorella e da un amico della vittima, testimoni oculari dell'accaduto. Per il momento ho concluso da Napoli, vi restituisco la linea. Grazie Enzo per questi aggiornamenti. Una notizia che arriva invece da Bari: un operaio è morto e uno è rimasto ferito in modo grave in un incidente sul lavoro. Dalle prime informazioni che sono arrivate dai vigili del fuoco sembra che i due stessero lavorando in un cantiere all'interno di un albergo in ristrutturazione quando sono precipitati nel vano dell'ascensore. Una storia ora che va dalla Germania a Pescara, la storia di una truffa e di una caccia al tesoro. Non dite a Susan Klatten, ricca ereditiera della famiglia che controlla la BMW, che questa storia a tratti è divertente. È finita al centro di una spy story curiosa, quantomeno per la location, Pesco Sansonesco, un paese dell'entroterra abruzzese. Qui, in questi giorni, la polizia tedesca, insieme alla squadra mobile di Pescara, sta cercando un bottino di diversi milioni di euro. La storia comincia fra i monti lontani centinaia di chilometri da casa di Lady BMW. 46 anni, è stata conquistata da Helge Garbi, una specie di James Bond di 3 anni più giovane. Uomo affascinante che a suon di bicchieri di whisky in mano e occhiate sensuali conquistava le sue prede per poi ricattare le donne, spesso sposate e con figli. Minacce possibili grazie all'aiuto di un presunto complice, Ernano Barretta, proprietario dell'albergo di Pesco Sansonesco dove avvenivano questi incontri. Barretta firmava le scappatelle da stanze confinanti e Sgarbi ricattava le vittime sedotte. La Klatten inizialmente gli aveva regalato 7 milioni di euro senza essere ricattata, ma quando Sgarbi si è sbilanciato chiedendone 49, lei si è fermata e con grande forza, dignità e coraggio ha raccontato tutto alla famiglia e alla polizia. Sgarbi e Barretta sono stati arrestati, di cui la collaborazione fra 007 tedeschi e polizia pescarese. Finora sono stati recuperati solo 2 milioni di euro, ma la caccia al tesoro è ancora aperta. Si cercano mappe e tracce che conducono a presunti barili nascosti nella vallata di fronte all'albergo. Conterrebbero altri 3 o 4 milioni di euro. Stefano Totoro, GR 24, Il Sole 24 Ore. 13 e 33 minuti, GR Extra Large, queste le notizie della giornata. La finanziaria approda in aula alla Camera, ma ci sono le critiche del presidente di Montecitorio. Il ricorso alla fiducia sarebbe anomalo e deprecabile, dice Gianfranco Fini, che contesta che non vi sia stato l'esame degli emendamenti in commissione. La Banca Centrale d'Inghilterra taglia i tassi di interesse dell'1,5%, l'intervento più forte da 27 anni a questa parte. Ed è attesa fra circa un quarto d'ora la decisione della Banca Centrale Europea. Ci si aspetta un taglio di 50 punti base. Le borse europee ancora in ribasso, anche se in miglioramento. Barack Obama, pur non essendo in carica, parteciperà al G20 che si svolgerà tra 10 giorni sulla crisi. Il neopresidente sta intanto definendo lo staff che lo accompagnerà nel periodo di transizione. In coma dopo uno scippo in Piazza Dante a Napoli sono stati arrestati 2 ragazzini di 15 e 17 anni, la vittima una donna di 27. Il Papa al Forum Cattolico Musulmano, i leader politici e religiosi assicurino l'esercizio dei diritti, uniamo i nostri sforzi, dice il pontefice. Le vendite dei biglietti di Alitalia a causa delle incertezze che ci sono state stanno crollando ed è anche per questo che ora sarebbe una follia se si facessero degli scioperi, così il ministro per lo sviluppo economico Claudio Scajola. All'esame del Consiglio dei Ministri il decreto sull'università, intanto il governo rinvia la chiusura delle scuole sotto i 50 alunni, avverrà tra il 2010 e il 2011. Approfondimento economico dedicato oggi alla missione degli imprenditori e delle banche italiane in Vietnam. Facciamo un punto con Paola Nania che si trova là. Paola. Buongiorno, la missione di Confindustria, dell'ICE, che è l'Istituto per il Commercio Estero, e dell'ABI, l'Associazione delle Banche, si è trasferita oggi dalla capitale del Vietnam, Hanoi, a Ho Chi Minh, che poi è la vecchia Saigon nel sud del paese. La missione arriva dunque alla fine, dovrebbe terminare tra due giorni ed è possibile fare un primo quadro. Da un lato ci sono stati gli incontri cosiddetti B2B, business to business, tra imprenditori italiani e imprenditori del posto. Gli imprenditori italiani che partecipano alla missione sono 300 e sono 1700 gli incontri appunto tra imprenditori italiani e vietnamiti previsti all'interno di questa missione, incontri che servono per prendere i primi contatti per poi pensare a un'eventuale collaborazione. Dall'altro ci sono invece i primi passi concreti verso una cooperazione economica tra i due paesi, c'è per esempio il primo stabilimento della Piaggio che aprirà ad Hanoi, vicino alla capitale Hanoi, tra pochissimi mesi, ci sono le banche che hanno messo a disposizione un plafond da 500 milioni di euro per finanziare le imprese interessate a investire in Vietnam. Unicredit ha aperto uno sportello informativo proprio per assistere le imprese negli investimenti all'interno di questo paese. C'è inoltre il nuovo investimento della Cardico, che è un'azienda che produce tessuti speciali per abbigliamento, da 18 milioni di dollari. Insomma, primi passi, ma il potenziale di investimento del Vietnam, dell'Italia in Vietnam, è ancora enorme. Il vantaggio comunque è che il nostro paese, a differenza di quanto fatto in Cina, è uno dei primi paesi che si è mosso per avviare rapporti economici con Hanoi. Ma sentiamo dal presidente dell'ICE, Umberto Vattani, quali sono i settori più promettenti in Vietnam. Quello che occorre per la vita di tutti i giorni, l'automotive, la mobilità e così via, ci sarà sicuramente una maggiore espansione. Ma quello che interessa molto a noi sono i piani di sviluppo del paese, che hanno come punto di riferimento centrale le infrastrutture. Grazie dunque a Paola Anania in collegamento dal Vietnam. Passiamo a parlare di università, Alessandra. Sì, perché è una parte della riforma universitaria, insomma questi giorni avete visto tutte le proteste degli studenti in piazza, una parte della riforma dell'università verrà presentata sotto forma di decreto legge oggi pomeriggio in Consiglio dei Ministri alle 15. Ma il governo ha fatto una piccola marcia indietro in questo senso. Nel senso che gran parte della riforma entrerà in un disegno di legge, mentre nel decreto ci saranno solo i provvedimenti più urgenti. Sentiamo quali. Tempi duri per le università cosiddette sprecone, tra queste Firenze, Trieste, Pisa, Bari e l'Orientale di Napoli. Il giro di vite dovrebbe arrivare con il decreto che il ministro Gelmini porterà oggi al Consiglio dei Ministri. Gli atenei con i bilanci in rosso, in tutto 20 su 75, non potranno fare nuove assunzioni per un anno. Una deroga parziale al blocco del turnover già stabilito dalla legge 133 dello scorso 3 agosto è prevista solo per l'assunzione di nuovi ricercatori. Il decreto conterrà una serie di misure ritenute urgenti e quindi da anticipare rispetto alla riforma complessiva dell'università che sarà contenuta in un disegno di legge. Tra i provvedimenti immediati si prevede anche che il fondo dello Stato per finanziare gli atenei non sia distribuito solo in base al numero degli iscritti, ma anche in base a criteri di produttività. E si ipotizza una modifica dei meccanismi di selezione per i professori associati e ordinari. Avrebbero da ora un solo vincitore, eliminando la doppia idoneità che può generare accordi sottobanco. Potrebbero inoltre essere stanziati fondi da destinare agli studenti più meritevoli per alloggi e borse di studio. Francesca Malaguti, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sempre a proposito di istruzione, slitta la chiusura delle scuole che hanno meno di 50 alunni. Il governo si è infatti accordato con gli enti locali per spostare il termine fra il 2010 e il 2011. La decisione vale anche per l'accorpamento di quelle sotto i 300 alunni. Il mancato rispetto di queste norme avrebbe portato a un commissariamento per le regioni. E proprio per questo motivo, dunque, le regioni erano sul piede di guerra. Sentiamo invece come hanno appreso questa novità, questo slittamento, dalle parole di Vasco Errani, presidente della Conferenza delle Regioni, al microfono di Valentino Furlanetto. Io voglio dire intanto che è una ottima notizia per il paese, per i genitori, per le ragazze e i ragazzi. Cioè, nell'anno scolastico 2009-2010 non si chiude nessun istituto, e questo è il risultato dell'iniziativa che noi abbiamo fatto ed è un risultato importante. Presidente, quello che voi contestavate era, oltre al merito, anche il metodo, no? Questa minaccia certo, di commissariamento. Certo. E questo è stato per fortuna tolto, perché era veramente una iniziativa unilaterale per noi inaccettabile. Non c'è più il commissariamento. Secondo, i criteri per fare il piano dimensionamento scolastico vanno concordati attraverso un'intesa con le regioni. Quindi si riparte la discussione e si deve fare un'intesa, dopodiché per l'anno scolastico 2010-2011, salvaguardando il diritto alla istruzione, che è un diritto costituzionale fondamentale, andremo a realizzare questo piano. Mi sembra un risultato molto importante, che è frutto della nostra iniziativa, ma credo anche dell'iniziativa che in tantissime parti del paese, ovunque, ha visto mobilitato famiglie, genitori, mondo della scuola, studenti. Un risultato importante. Parliamo ancora delle regioni per una vicenda che stiamo seguendo molto da vicino, le regioni nelle quali sono esauriti i fondi destinati alle strutture sanitarie private convenzionate. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dei casi di Campania, Sicilia e Puglia, dove i pazienti sono di fatto costretti a pagare ormai per intero le prestazioni, se si rivolgono naturalmente al privato convenzionato, oppure possono rivolgersi al pubblico, ma spesso con lunghe liste d'attesa. Oggi andiamo in Umbria. Un'ascoltatrice ci ha scritto a extralarge@radio24.it dicendo che a settembre si è rivolta per una radiografia al polso ad una struttura convenzionata a Perugia e ha dovuto pagare per intero. Fondi finiti dunque anche in Umbria? Lo abbiamo chiesto a Giulio Iaccaroni, che è presidente della sezione regionale di Alpic Federlab, ossia l'associazione che riunisce i laboratori privati. Noi non abbiamo neanche questo problema, in quanto i fondi pubblici stanziati per la sanità privata, o meglio le strutture accreditate, sono così esigui che in pratica finiscono subito. Lei consideri ad esempio i laboratori della provincia di Perugia, parliamo di laboratori di analisi cliniche, hanno un tetto annuale per struttura dell'ordine dei 20.000 euro. Per quanto riguarda invece la provincia di Terni, la situazione è addirittura diversa, nel senso che non ci sono strutture convenzionate. Esattamente, e nella provincia di Terni dal 1992, per quello che riguarda la specialistica ambulatoriale ad esclusione della risonanza magnetica e della TAC, non esistono strutture convenzionate. A quanto ammontano i fondi destinati dalla regione per la sanità privata convenzionata? Dall'ultima analisi statistica che ho potuto riscontrare nel corso di quest'anno, l'importo è dell'ordine dei 5 milioni di euro, che vengono assorbiti per il 90% da tre case di cura della provincia di Perugia. E questo era Giulio Iaccaroni, presidente della sezione regionale di Alpic Federlab, l'associazione che riunisce i laboratori privati appunto sul caso Umbria. Ci sono notizie che arrivano da Alitalia, lo sentivate già nei titoli. Il ministro per lo sviluppo economico Claudio Scajola dice che le vendite dei biglietti di Alitalia stanno crollando ed anche per questo ora sarebbe una follia se si facessero degli scioperi. Tra l'altro ieri sono arrivate notizie anche per quanto riguarda l'offerta della CAI, della compagnia aerea italiana, che offre 1 miliardo per gli asset di volo dell'Alitalia. Simone, chiudiamo in bellezza questa parte di XL con una vignetta che naturalmente riguarda le elezioni americane, di cui parleremo anche fra pochissimo. Sì, sì, ne sono pieni i giornali di vignette sulle elezioni americane. Abbiamo scelto quella di LK su Repubblica perché mette insieme un po' quello che è il voto americano e anche i problemi di immigrazione nostrana, se vogliamo. Ci sono i soliti due personaggi che parlano. Uno dice all'altro: Obama la Casa Bianca per far sognare l'America, e l'altro risponde: quel lavoro che i bianchi non vogliono più fare. Le 13:45 in punto, GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Sta per arrivare la decisione sui tassi da parte della Banca Centrale Europea, intanto la Bank of England, l'Italia dell'1,5%, l'intervento più forte da 27 anni a questa parte. Le borse europee ancora in ribasso, ma migliorano. La finanziaria approda in aula alla Camera, ma ci sono le critiche del presidente di Montecitorio. Il ricorso alla fiducia sarebbe anomalo e deprecabile, dice Gianfranco Fini, che contesta che non vi sia stato l'esame degli emendamenti in commissione. Barack Obama, pur non essendo in carica, parteciperà al G20 che si svolgerà tra 10 giorni. Sulla crisi, il neopresidente sta intanto definendo lo staff che lo accompagnerà nel periodo di transizione. In coma dopo uno scippo in pieno centro a Napoli sono stati arrestati 2 ragazzini di 15 e 17 anni. La vittima è una donna di 27. Il Papa al Forum Cattolico Musulmano: i leader politici e religiosi assicurino l'esercizio dei diritti, uniamo i nostri sforzi, dice il pontefice. All'esame del Consiglio dei Ministri il decreto sull'università, intanto il governo rinvia la chiusura delle scuole sotto i 50 alunni, avverrà fra il 2010 e il 2011. Ed ecco, è appena arrivata la decisione della Banca Centrale Europea. Mentre attendiamo di collegarci con Francoforte, col corrispondente del Sole 24 Ore, Beda Romano, vi diamo intanto il taglio. È pienamente nelle attese. Il taglio è di 0,5 punto percentuale, di 50 punti base. I tassi scendono al 3,25%, dal 3,75%. Possiamo già darvi un quadro di quel che sta succedendo sulle piazze finanziarie. Le borse, al momento la reazione non è fortissima, probabilmente era scontato questo taglio. Il MIPTEL cede l'1,88%, il MIDEX l'1,81%, l'S&P MIB l'1,81%, quindi tutti in linea. Per quanto riguarda invece Londra, scende dell'1,98%, però era arrivata a cedere circa il 4% in giornata, così come le altre borse europee. Cercheremo di recuperare Beda Romano tra poco, col quale stiamo cercando di prendere la linea. E passiamo ad altro, ad una storia che arriva da Modena, Alessandra. Sì, passiamo a una storia che arriva da Modena, perché c'è il decreto di un giudice del tribunale che apre di fatto la strada al testamento biologico, ha dunque riaperto anche il tema del il dibattito sull'argomento. Il giudice ha infatti accolto la richiesta di un uomo che, nonostante sia in perfette condizioni di salute, ha deciso comunque di nominare sua moglie come amministratore di sostegno, in questo caso garante delle sue volontà di fine vita. E qua si necessita un chiarimento. Nell'eventualità di una malattia irreversibile o allo stadio terminale, la moglie sarebbe autorizzata a negare il consenso a terapie invasive. La figura dell'amministratore di sostegno è stata istituita nel 2004 per tutelare anziani, disabili, ma anche alcolisti, tossicodipendenti e malati terminali. La novità è però che viene usata per la prima volta per un uomo sano in relazione alle sue volontà di fine vita. In mancanza di una legge specifica è stata dunque applicata una legge che già esiste. Come spiega l'avvocato dell'uomo, Maria Grazia Sacchetti, a Maria Luisa Pezzali. Non c'è un articolo che dica espressamente che le volontà di fine vita possono trovare esecuzione in questo istituto, ma tutta la legge, se noi andiamo a ripercorrere, mette al centro della propria attenzione la volontà della persona incapace. Avvocato, in questo caso quest'uomo che ha 50 anni è in buonissima salute, davanti al giudice ha espresso l'intenzione di non essere sottoposto a nessun tipo di cura invasiva in caso di malattia terminale. Quanto e fino a che punto vale questa volontà nell'applicazione e poi pratica nel caso malaugurato, ovviamente, in cui dovesse esserci una malattia di questo genere? Vale senza nessun limite, nel senso che il dottor Tanzani ha emesso un provvedimento che è immediatamente efficace e quindi un provvedimento che non può essere disatteso neppure dai medici, tantomeno dai medici, in forza del quale non possono essere applicate a questo soggetto, a meno che questi non cambi idea, le terapie che ha dichiarato di non voler subire, quindi rianimazione cardiopulmonare, dialisi, trasfusione di sangue, terapie antibiotiche, ventilazione, idratazione, alimentazione forzata e artificiali. Sono elencate le terapie che il signore non vuole subire, la persona non vuole subire. Se i medici dovessero invece applicare queste terapie? Rispondono del reato di lesioni volontarie, come già è stato dichiarato dalla Cassazione con la sentenza del 2007. Il Papa al Forum Cattolico Musulmano in corso a Roma ha detto: i leader politici e religiosi hanno il dovere di assicurare il libero esercizio dei diritti nel pieno rispetto della libertà di ogni individuo e della libertà di coscienza e di religione. Le persecuzioni, ha aggiunto Ratzinger, sono atti inaccettabili e ingiustificabili, ancora più deplorevoli se portati avanti in nome di Dio. Poi, riferendosi ai rapporti con l'Islam, ha detto ancora: uniamo i nostri sforzi per superare tutti i fraintendimenti e i disaccordi. E a proposito di Islam, torniamo, e di mondo arabo, torniamo alle elezioni americane. E sentiamo allora come affrontano il tema delle elezioni americane i quotidiani arabi oggi in edicola. Deep Fateh Ali. La vittoria di Obama scatena l'entusiasmo e provoca grandi aspettative di cambiamento nella stampa araba di questa mattina. L'egiziano Al-Ahram apre con questo titolo: Obama riscrive la storia americana e Mubarak gli chiede di risolvere la questione palestinese. Il moderato Al-Hayat parla del miglior presidente per gli americani e forse sarà misericordioso con gli arabi. I giornali tradizionalmente schierati contro l'Occidente non sono da meno. Al-Quds Al-Arabi scrive che l'America ha dimostrato di essere capace di sorprendere se stessa e il mondo intero, ma osserva che a Baghdad ci sono timori che il suo vice possa rilanciare il suo piano per dividere l'Iraq. Per il filo siriano Al-Safir, Obama ha riconciliato l'America con se stessa e con il mondo intero e commenta: vedendo Obama salire alla vetta del potere negli Stati Uniti, nessun uomo sul pianeta può rimanere neutrale, perché il mago della parola ha voltato la pagina dell'11 settembre. E sempre a proposito di elezioni americane, il ritratto della prossima First Lady. My best friend for the last 16 years, the rock of our family, the love of my life, the nation's next First Lady, Michelle Obama. La migliore amica da 16 anni, la roccia, il grande amore. Barack Obama ringrazia la prossima First Lady Michelle durante il primo discorso dopo l'elezione. Michelle, che è stata determinante nei quasi due anni di campagna elettorale. Hi, this is Michelle Obama. I'm here in Littleton, Colorado. I can't believe... Non fatevi ingannare dal tono pacato, dolce, persuasivo in uno degli ultimi appelli video su barackobama.com. Michelle è apparsa in pubblico tanto, volentieri, ma soprattutto in maniera travolgente. Please welcome Michelle Obama! Now, I gotta say, and your husband's a good dancer, but you're a better dancer than him. In rete impazzano i video in cui Michelle balla, ebbene, va detto, nello show di Ellen DeGeneres. Michelle è la real sister, la metà 100% African American della coppia, colei che ha fatto da garanzia per quella parte della comunità nera che non vedeva di buon occhio quel marito nero solo a metà e che nel DNA non porta traccia alcuna della tragedia della schiavitù. E così Michelle ha calcato i palcoscenici, fa lei stessa da presentatrice di Oprah Winfrey, che in America è la grande potenza della TV, fa battute da tutti. Emilia sort of overhears it. She's 10. She says, "You're going to be on all the TV?" She said, "Are you going to interrupt my TV?" Jay Leno, Larry King, Katie Couric e ora l'America attende l'evoluzione First Lady dello stile pop e il mondo forse parlerà un pochino meno di Carla Bruni. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Siamo riusciti a recuperare Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Allora Beda, un taglio di mezzo punto percentuale, di 50 punti base da parte della Banca Centrale Europea, esattamente quelle che erano le attese. Erano le attese, sì, le attese pensavano a un taglio di mezzo punto percentuale che porta il costo del denaro al 3,25%. Ma non dobbiamo nasconderci che negli ultimi giorni sui mercati finanziari erano aumentate le attese, le aspettative per una riduzione del costo del denaro nella zona euro più aggressiva, addirittura di 75 punti base. E naturalmente la decisione della Banca d'Inghilterra pochi minuti fa di ridurre il costo del denaro addirittura di 150 punti base, beh, naturalmente aveva rafforzato le speranze di una parte degli operatori sui mercati finanziari di un allentamento monetario aggressivo da parte della Banca Centrale Europea. Beda, ti ringraziamo e confermiamo quello che ci hai detto anche guardando alle borse che in questo momento proseguono in ribasso con l'S&P MIB che cede il 2,37%. La mossa di Francoforte, lo avete appena sentito, rispetta le attese. La BCE taglia i tassi di 50 punti base, la Bank of England l'Italia dell'1,5%, l'intervento più forte da 27 anni a questa parte. La fiducia sulla finanziaria sarebbe deprecabile, dice Fini. La manovra arriva in aula senza l'esame degli emendamenti da parte della Commissione. Obama affronta la crisi, andrà al G20 con Bush e nel frattempo sceglie la squadra per la transizione. In coma dopo uno scippo, in piazza Dante a Napoli, sono stati arrestati due ragazzini di 15 e 17 anni. La vittima è una donna donna di 27. Marcia indietro, nessuna chiusura delle piccole scuole almeno fino al 2010. Oggi all'esame del governo il decreto sull'università. Testamento biologico di fatto, un uomo di Modena affida alla moglie la scelta nel caso, colpito da malattia, gli sia impossibile farla. Il Papa al Forum Cattolico Musulmano, i leader politici e religiosi assicurino l'esercizio dei diritti religiosi. Uniamo i nostri sforzi, dice il Pontefice. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco. Con in regia Maria Piera Ceci, con in regia Peter Bescapè, pardon, e al coordinamento Maria Piera Ceci. Il prossimo GR alle 15, Extra Large torna domani alle 13. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.